DLQ Checkpoint è un centro community base su modello di quelli che esistono più o meno in tutta Europa già dalla fine degli anni 90, primi anni 2000, cioè personale sociale, in genere peer, persone che vivano la stessa problematica, persone in questo caso sieropositive, che decidano di organizzarsi, aprono un centro e offrono test rapidi con counseling per l'HIV, per l'infezione a trasmissione sessuale, per tutte in questo momento anche la PrEP sulla prevenzione, insomma tutta una serie di attività legate alla sanità ma di stampo anche sociale. A Bologna noi l'abbiamo aperto in accordo con la regione, con un accordo col comune che ci ha dato la sede che noi abbiamo ristrutturato, l'ASL fa da intermediario con la regione, cioè la regione dà il finanziamento minimo all'ASL che poi ce lo gira a noi, che poi è un nocciolo del nostro problema, e niente, noi in accordo con l'ospedale Sant'Orsola, gli infettivi, lavoriamo in rete, cioè le persone che noi troviamo reattive ai test vengono poi inviate nel percorso di accertamenti e di cura. Questo in sintesi molto è quello che fa DLQ Checkpoint. Oltre a questo noi ci occupiamo anche di qualità della vita delle persone già HIV positive, per cui facciamo conferenze, convegni, attività di gruppo anche sulla qualità della vita, contro lo stigma sociale e attività di questo tipo. Noi siamo specifici, è un gruppo di persone LGBT, perché nella nostra città il gruppo più colpito è quello delle persone LGBT, per cui ci siamo specializzati rispetto a questo, anche perché noi che abbiamo fatto nascere il centro siamo tutte persone LGBT. Comunque al nostro centro si rivolge un buon 40 anche 45% di ragazzi e ragazze eterosessuali. Per conoscere meglio anche qual è il ruolo sociale di questi checkpoint, quanto è importante il fatto che esistano delle strutture di prevenzione al di fuori dell'ambito ospedaliero? È importantissimo, perché è fondamentale facilitare l'accesso al test. Adesso ti spiego. Il grande problema che noi abbiamo sono le diagnosi tardive, per due motivi, sia per la salute degli individui, perché con una diagnosi tardiva l'infezione ha lavorato molto e per cui ha creato danni, sia perché noi sappiamo ormai dal 2008 che una persona trattata non è più infettiva, per cui la persona diagnosticata e subito trattata vuol dire anche meno virus che circola, per cui una persona con diagnosi tardiva ha avuto molti anni per trasmettere il virus a altri. Se una persona è diagnosticata rapidamente non solo ne guadagna di salute, ma non diffonde più il virus, per cui sono essenziali questi centri. Abbiamo visto che il ministro della salute ha dichiarato che i risultati raggiunti dai checkpoint bolognesi sono incoraggianti. Nonostante questo riconoscimento istituzionale, diciamo l'appoggio politico delle varie istituzioni sanitarie che avete ricevuto in questi anni è altalenante. E che ripercussioni ha tutto questo sul vostro operato e quale gruppo di utenza ne subisce maggiormente le conseguenze? La ripercussione è alta, tant'è che noi abbiamo deciso di fare questa lettera, questa richiesta di incontri a 360 gradi per incominciare a mettere sul tavolo i temi. Tanto specifico che noi lavoriamo in volontariato, non è nessuna persona è retribuita e tutto, noi avevamo in convenzione che ce l'hanno tolto la possibilità di retribuire almeno alla segreteria, no? Quei lavori che richiedono un impegno anche diurno. Tu tieni presente che il nostro centro è aperto sostanzialmente la sera per facilitare sia l'accesso sia perché tutti noi di giorno lavoriamo. E questo è il primo tema. Dopodiché tutto questo tema di burocrazia porta a noi, il tesoriere volontario, tutto il personale volontario, un impegno quasi lavorativo, in orari lavorativi, che ci porta via un 80% di energie che noi potremmo spendere invece sul campo. Per intenderti, noi abbiamo aspettato 9 mesi il rinnovo della convenzione con l'ASL, la convenzione l'abbiamo firmata a torto collo dopo 9 mesi con modifiche con noi non concordate che a noi non piacevano, tipo ad esempio togliere la possibilità dai fondi della regione di retribuire qualcuno che stesse dietro alla segreteria, e facciamo una gran difficoltà anche ad averli questi finanziamenti, che sono finanziamenti piccolissimi, 35.000 euro si parla, facciamo fatica perché praticamente per termini burocratici loro rimborsano solo quello che vogliono loro, no? Indipendentemente da quale sia la nostra attività e i nostri bisogni, per cui questo lo puoi rimborsare, questo non lo puoi rimborsare, per cui siamo sempre persi a dover correre dietro a finanziamenti minimi che, ti ripeto, sono 35.000 euro. su un bilancio che noi abbiamo di più 100.000 euro, perché troviamo finanziamenti attraverso progetti, per intenderci, perché se dovessimo vivere con quei 35.000 euro forse non avremmo neanche mai aperto, non solo chiuderemmo adesso. Questa è una parte, poi dalla convenzione ci hanno tolto la parte delle campagne pubblicitarie che noi facciamo mirate a target, perché tutti gli studi scientifici dimostrano che funzionano se mirate a target, cioè se l'infezione capita in locali dove c'è scambio di sesso, tu devi fare materiale adatto a quei locali, che però considerano alcuni pornografia invece che materiale di prevenzione, cioè roba da medioevo, per se si vede tutto quello che succede in Europa. Per cui abbiamo tutta una serie di problematiche di questo tipo e le ricadute chiaramente sono sulle popolazioni target a rischio, perché non si riesce a fare prevenzione efficace e non si riesce, per quanto riguarda noi, a tenere aperti più giorni per fare più test. Noi abbiamo mesi di fila per fare il test. Noi potremmo aprire molti più giorni, adesso siamo aperti 2 giorni alla settimana. Parliamo della lettera che avete inviato alla regione, avete ricevuto qualche risposta? Al momento ci ha risposto la segreteria di Fabbri e la segreteria della Piccinini, dalla regione. Al momento le uniche risposte che abbiamo avuto sono queste. Gli incontri non ci sono ancora stati, ci saranno verso fine gennaio, primi di febbraio. Al momento posso dire ci ha risposto, che noi l'abbiamo mandata anche al Consiglio Comunale e all'assessore che ha sostituito Rito Nervo in comune. L'unico che ha risposto dal comune al momento è Bugani dei 5 Stelle, che incontreremo il 14. Noi l'abbiamo mandata anche al comune perché il comune attraverso Rito Nervo ha dato un appoggio sostanziale all'apertura di questo checkpoint a suo tempo. Per cui dobbiamo anche segnalare che con il fatto che Rito Nervo è andato in Parlamento e non è più in comune, un po' la sua assenza si sente, devo dire. Però vorremmo anche riprendere un'interlocuzione per capire adesso il comune cosa ne pensa, che cosa vuole fare di questo progetto.